so sì, c'era sto cagnanna. Gli uscenti siano rimasti come abissi, io scrissi i nastri rossi, mentre tu tessi e disfai come Penelope d'Ulisse le scritte dei nostri atti. Perfetti erano perfetti, ma i concetti evidentemente non ti appartengono. In questo appartamento più vuoto di una tenda senza suppellettili, i nostri progetti sono diventati torri gemelle. Io sono rimasto cenere, tu sei rimasta polvere, egli è rimasto male, noi siamo rimasti tristi, voi siete allegri e sperati. Loro già pensano a rate d'amore da fare con lei, il sé riporta male le addizioni, i miei neuroni vanno in ferie, ma per fortuna vanno da soli. Van Diesel gradirebbe gas, lei compra i strassi, io si liberasse, umido e tagliato, già fumato. E se mi ruro una cartina, si accendino che mi uccide, e chi decide deciderà, chi costringe costringerà. Ed ora che nemmeno più rispondi, corpi di ambulanti che imitano la parte d'arte, si diventa più egoisti di un dittatore dopo un golpe. Nemmeno 10 talpe seguirebbero le impronte dei segnali che lasciamo per il mondo. Nemmeno l'uomo del monte accetterebbe le troppe birre, le troppe grappe, mentre sabbie ricoprono mobili con polvere che acquistammo pensando oltre. So sì, c'era sto cagnanna. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Egocentrica più di un artista di sinistra, imitavi il ruolo della buona ed altruista, ma t'ha scoperto senza la patente che era automobilista. Ero come un cieco con il dono della vista, cartina mentre balli, e già dimentichi gli amori e le passioni. Al prossimo sicura che ti piantano un coltello nella schiena, ma tu fa copia e incolla delle vecchie sensazioni. Distruggi, dopo ricomponi. Regina senza trono che galoppa sopra un pony, saluto senza suono, sermone di una suora mentre si fa colazione. Gli ormoni si rifugiano tra mani di manifestanti buoni come cani pastori, non tedeschi, non magri come teschi, tu dimmi che faresti. Dici che qualcosa non ti quadra, trasforma un'orma di pistola in arma, trasforma un'ombra di zanzara in ambra, trasforma dell'argilla in piena forma, trasforma un segno insano in una firma, trasforma i tuoi pensieri che ricordi sanno tarli che tramutano in farfalla. E rimarrai da sola come Cristo in una mecca, sei come un crystal ball che non fa bolle. Sei bolla di sapone con un virus che mi infetta, sei seno di una madre senza latte. Brutta bestia, i pescatori senza l'amo, una parola guasta, come una bestemmia in bocca al papa. Ashtessori. Cognati con conati si dirigono su in vetta, tu chiama la vendetta. Ashtessori. Ed ora prega solo che io si metta. So sì, c'era sto cagnanna. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ashtessori.